notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Torna a parlare il sindaco dimissionario di Roma, Ignazio Marino. Gli esposti del Movimento 5 Stelle di Fratelli d'Italia sono vergognosi, in malafede o ignoranti. Il comune intanto è parte civile nel processo per mafia capitale che si apre oggi. Al tempo proseguono nel sud alluvioni, smottamenti e crolli, danni a Capri, mentre nel Sannio si chiede l'intervento dell'esercito. Sorprende un ladro in casa, gli spara e lo uccide. È indagato per eccesso di legittima difesa, è avvenuto tra Bergamo e Milano. I destini del sindaco di Napoli De Magistris e del presidente Campano De Luca nelle mani della Consulta, attesa la decisione sulla legge Severino. Arrestato in Israele lo sceicco Youssef, leader di Hamas in Cisgiordania. Nuovo accoltellamento di un soldato israeliano, ucciso l'assalitore. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Non l'abbiamo messo nei titoli, ma ovviamente faremo anche un punto sulle partite di Champions League che ci attendono a partire da questa sera. In apertura però la conferenza stampa del sindaco dimissionario di Roma, Ignazio Marino, che si è appena conclusa. A seguirla per noi c'era Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Il sindaco Marino, accompagnato dai suoi legali, ha da poco lasciato la sala della Protomoteca in Campidoglio, dove appunto ha tenuto questa conferenza stampa convocata all'indomani della sua visita a Palazzo di Giustizia, nella quale ieri ha rilasciato dichiarazioni spontanee ai PM che sono i titolari del fascicolo sulle sue spese sospette. Un caso, lo ricordiamo, che ha travolto il sindaco costringendolo alle dimissioni. Marino ha ribadito di non aver usato denaro pubblico per scopi privati e poi ha usato parole dure nei confronti degli esposti presentati da Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, esposti sulla base dei quali è stato aperto questo fascicolo, nel quale al momento non risultano indagati né ipotesi di reato. Ma sentiamo le parole del sindaco dimissionario. Sono esposti che io non esito a definire vergognosi. Sono scritti o da persone in malafede o da persone ignoranti. A causa di questa conferenza stampa, Marino stamattina non ha potuto presenziare, come invece avrebbe voluto, all'avvio del primo processo nato dall'inchiesta su Mafia Capitale, quello che vede alla sbarra con l'accusa di corruzione Giovanni Fiscon, che è l'ex direttore generale dell'AMA, cioè la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti. A rappresentare il comune che si costituirà parte civile c'era invece l'assessore alla legalità Sabella. Sentiamolo, poi la linea può tornare allo studio. Il comune di Roma si è costituito parte civile nel processo, in questo primo processo del filone Mafia Capitale, che riguarda alcune ipotesi di reato, soprattutto quelle ascrivibili all'ex DG dell'AMA Giovanni Fiscon. Lo scopo del comune, la costituzione di parte civile, è quello di ottenere ovviamente il risarcimento dei danni morali, materiali e anche funzionali. Soprattutto funzionali è quello che mi preme di più, perché sono le funzioni statutarie che Roma Capitale ha nei confronti dei propri cittadini. Grazie al nostro Andrea Viali per questi aggiornamenti. È una giornata importante quella di oggi, con la Corte Costituzionale che si riunisce per decidere sulla legge Severino, quella che impone la sospensione dall'incarico pubblico per i condannati. Una sentenza che toccherà, per parlare solo dei casi più noti, il sindaco di Napoli De Magistris, il presidente Campano De Luca e ovviamente Silvio Berlusconi. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Sono tre casi simili ma diversi tra di loro. Poco prima di mezzogiorno è cominciata in Corte Costituzionale appunto l'udienza che tutta la politica aspetta, quella sulla legge Severino, come ricordavi, che sospende gli amministratori condannati per alcuni reati anche solo in primo grado, e questo è valido per De Luca e per De Magistris ma non per Berlusconi. Oggi si esamina il caso del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ma al verdetto appunto guarda da diretto interessato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, anche lui condannato in primo grado per abuso d'ufficio. È un po' tutta la politica che ruota intorno a questa norma e che ha fatto decadere anche da Silvio Berlusconi da senatore, ma solo dopo una condanna definitiva, e intorno a questa norma la politica si è spaccata più volte. La Corte, a ranghi ridotti per la prolungata mancata elezione di due membri, dovrà stabilire se il ricorso della TAR della Campania, che aveva permesso ai due politici campani di restare in carica, sia irricevibile. Quindi la legge va bene così, come ha chiesto il governo attraverso l'Avvocatura dello Stato, o se invece la norma sia anche solo in parte incostituzionale, perché ad esempio non contempla il caso di chi, come De Magistris, era candidato prima della sua entrata in vigore. Il verdetto attesa in serata potrebbe decapitare la campagna e in ogni caso però lascerà il segno nel dibattito politico. Staremo a vedere, Simone. Grazie Raffaella Calandra, e su questo torneremo più avanti per capire quali possono essere gli scenari, e lo faremo con un costituzionalista. E sempre a proposito di politica e giustizia, di questa mattina la notizia che Mario Mantovani, l'ex vicepresidente della Regione Lombardia, arrestato una settimana fa per corruzione, concussione, turbativa d'asta, deve rimanere in carcere. Lo ha stabilito il GIP di Milano, Stefania Pepe, che ha respinto l'istanza di scarcerazione arrivata dalla difesa. Politica che avrà tempo di dibattere di questo, ma nel frattempo dibatte della manovra, della legge di stabilità varata dal governo, con un dibattito che si concentra molto all'interno del Partito Democratico, ma che ovviamente non tiene conto solamente di questo. Il punto di oggi, comprese le modalità di pagamento del canone, sulle quali abbiamo qualche dettaglio in più, con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, non c'è ancora nulla di ufficiale, partiamo proprio dal canone RAI, ma lo schema scelto dal governo dovrebbe essere il seguente: la tassa sul servizio pubblico radiotelevisivo verrà pagata solo per la prima casa, proprietari ed inquilini, in 6 rate da 16,66 euro l'una, e non tutti saranno tenuti a farlo, chi è senza TV e internet sarà esentato. La rata comparirà da febbraio 2016 nella bolletta elettrica, sarà chiaramente indicata in una voce a parte e, come è evidente, sarà a pagamento bimestrale. Il canone così rivisto scende allora, come indicato nella legge di stabilità, 100 euro e dovrebbe permettere di recuperare un gettito di circa 2,5 miliardi. La bozza di Palazzo Chigi, contenente le modalità tecniche del pagamento, dovrebbe arrivare comunque oggi sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, che deve confezionare il decreto. Sulla manovra economica e soprattutto sull'aspetto fiscale interviene intanto questa mattina proprio sul Sole 24 Ore il ministro Padoan, che dice la pressione fiscale scenderà al 42,4%, quanto ai tagli di spesa c'è una spending review con interventi strutturali per oltre 5 miliardi. Questa manovra, afferma il responsabile dell'economia, è espansiva e allo stesso tempo di risanamento. Infine il tema pensioni. Secondo il presidente INPS Boeri, nella legge di stabilità ci sono stati solo interventi selettivi e parziali che creano asimmetrie di trattamento. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Il governatore della Banca d'Italia sarebbe indagato dalla procura di Spoleto in un'inchiesta per corruzione e truffa. È un atto dovuto l'iscrizione di Ignazio Visco nel registro degli indagati della Procura di Spoleto, e il governatore della Banca d'Italia, secondo quanto dichiarato dall'Istituto Centrale, era all'oscuro di tutto. Le accuse sono pesanti, si parla di corruzione, truffa, abuso d'ufficio e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, tutto contenuto in un fascicolo aperto dai magistrati per far luce sulle vicende che negli ultimi 5 anni hanno toccato la Banca Popolare di Spoleto. Dalle proteste di molti dei 21.000 piccoli soci della cooperativa Spoleto Crediti e Servizi all'esposto presentato da circa un centinaio di essi, sono loro a lamentare, come recitano le carte in mano ai magistrati, un sistema di operazioni apparentemente lecite che hanno portato allo svuotamento del patrimonio della banca. Ora sarà necessario fare chiarezza sulle ispezioni di Banca Italia tra 2010 e 2012, sul successivo commissariamento, sulla vendita di BPS a Banco Desio e infine nello scorso anno sul provvedimento del Consiglio di Stato che dichiara illegittimo il commissariamento stesso. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Spoleto. Ancora cronaca: i carabinieri di Brescia, con l'aiuto di cani specializzati, sono tornati nell'azienda di Marcheno, dalla quale è scomparso l'8 ottobre scorso il 50enne imprenditore Mario Bozzoli, vicenda della quale vi abbiamo parlato ampiamente anche ieri. La convinzione di inquirenti e investigatori col tempo è diventata quella che l'uomo non sia mai uscito dalla ditta nella quale si producono leghe speciali, una convinzione espressa ieri tra l'altro dal procuratore di Brescia Tommaso Buonanno. Gli elementi a nostra disposizione, aveva detto il magistrato, ci portano a ritenere che il signor Bozzoli appunto non sia mai uscito da quella fabbrica. Quando avremo dettagli e notizie ulteriori su questa vicenda ve li daremo. Restiamo sulla cronaca con la morte di un ladro questa notte in un'abitazione tra Bergamo e Milano. È entrato nella villetta da una finestra, ma i rumori hanno svegliato il proprietario, un pensionato 65enne, che gli ha sparato. È morto così un uomo rumeno di 28 anni stanotte intorno all'una, mentre tentava insieme a 2 complici un furto in una palazzina a Vaprio d'Adda, zona nord-est di Milano. Dalle prime ricostruzioni, il pensionato avrebbe esploso i colpi di pistola nel buio contro il ladro, che gli puntava addosso una torcia. Poi sarebbe uscito sul balcone e avrebbe visto altre 2 persone fuggire. a chiamare i soccorsi una vicina che si sarebbe accorta dei tre ladri mentre scavalcavano la recinzione della villetta, ma all'arrivo dei carabinieri la tragedia si era già consumata. L'arma era regolarmente detenuta e sembra che il 65enne l'avesse comprata dopo aver subito altri 4 furti in casa negli ultimi 3 mesi. Ora il pensionato è indagato per eccesso colposo in legittima difesa. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo tra Bergamo e Milano, ma per tutt'altra vicenda. Si è registrato in autostrada un gravissimo incidente. Stamattina il ferito più grave è l'autista di uno dei 3 pullman coinvolti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione al momento. Il tamponamento è avvenuto intorno alle 8.30 lungo l'autostrada 4 tra Ponte Oglio e Grumello del Monte in direzione Milano. 120 passeggeri a bordo di questi 3 mezzi, in maggior parte studenti delle superiori in gita scolastica. Solo per pochi sono state necessarie delle medicazioni. Sempre sullo stesso tratto ci sono stati altri 2 tamponamenti senza feriti, quindi grande impatto sul traffico della A4. E andiamo alla situazione del maltempo. Registrato del comune di Benevento. Si informano i cittadini. Questo è il messaggio che si è sentito nelle strade di Benevento in queste ore, che raccomandava ai cittadini di rimanere in casa. Le scuole ancora chiuse in gran parte del Sannio, arrivano appelli dai sindaci di comuni particolarmente colpiti come Circello. Il sindaco Gian Claudio Golia parla di un paese senza luce, senza telefoni, ferma la viabilità, contrade isolate, ponti crollati, e chiede addirittura l'intervento dell'esercito. La giornata di oggi ha fatto registrare altri temporali e problemi con smottamenti e crolli che ci sono stati anche a Capri. Il maltempo che si sta spostando in Puglia e poi verso la Sicilia. Più avanti torneremo su tutto questo, cercheremo di fare un punto anche con l'Associazione degli Industriali di Benevento e cercheremo di raggiungere anche qualche sindaco nel corso della trasmissione. Siamo alle tensioni ai confini dell'Europa per l'arrivo di profughi. Non bastano i muri di filo spinato a fermare il viaggio dei migranti, che si spostano su altre strade, attraversano altre campagne, altri boschi. La Croazia ha più volte chiuso e riaperto la frontiera con la Serbia, l'ultima questa mattina permettendo a piccoli gruppi di profughi di passare. Anche ieri Zagabria aveva prima chiuso e poi riaperto la frontiera a causa del flusso imponente di migranti presenti nei centri di accoglienza, e anche per le proteste della Slovenia, che accusa la Croazia di non rispettare le intese sulle quote delle persone da lasciar passare. I migliaia hanno trascorso un'altra notte sotto la pioggia e nel fango. Situazione tesa anche in Slovenia, che oggi ha fatto appello a una maggiore solidarietà europea. Lubiana si è detta sovrastata dal flusso di migranti e ha annunciato la mobilitazione dell'esercito. Solo ieri 8.000 persone sono entrate in Slovenia dalla Croazia. Secondo quanto sostiene Lubiana, solo 2.000 potranno proseguire il viaggio verso l'Austria. Vienna non permette l'ingresso che di un numero limitato di migranti, ha precisato il governo sloveno, suscitando la secca smentita da parte dell'esecutivo austriaco. Sulle coste siciliane e pugliesi oggi arriveranno poco meno di 1.200 persone e 100 lasceranno l'Italia per essere ricollocati in Europa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero, in Israele, dove questa mattina è stato arrestato un importante capo di Hamas. Beit Awa, sud di Hebron, un soldato israeliano è stato pugnalato. Le ferite riportate non sono gravi. L'attentatore, un palestinese di 24 anni, è stato invece ucciso dai militari israeliani. La notte scorsa, intanto, l'esercito israeliano ha arrestato a Ramallah il leader politico e uomo immagine di Hamas in Cisgiordania, lo sceicco Hassan Youssef. Secondo un portavoce dell'esercito, avrebbe incitato al terrorismo. L'arresto si è svolto senza incidenti, mentre in mattinata, a sorpresa, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon è arrivato per 1 o 2 giorni di incontri. Oggi incontrerà il premier israeliano Netanyahu, domani il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Stando a quanto riportano le agenzie israeliane, Netanyahu avrebbe inoltre avuto un colloquio aspro con l'ambasciatore francese, nel quale è stata ribadita la contrarietà israeliana alla proposta di Parigi di osservatori internazionali sulla spianata delle moschee. Una posizione, quella francese, condivisa dal segretario di Stato americano John Kerry, che incontrerà domani a Berlino Netanyahu. Sabato sarà ad Amman in Giordania per incontrare Abu Mazen. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Canada, Justin Trudeau e il suo partito liberale hanno vinto le elezioni politiche. Il primo ministro uscente Stephen Harper ha riconosciuto la sconfitta e ha presentato le sue dimissioni dalla guida del partito conservatore. Trudeau raggiunge 184 seggi con un voto popolare che assegna al partito il 39,5% delle preferenze. Prima di andare allo sport, ci spostiamo a Bologna, dove è in corso lo sgombero di un palazzo, di un edificio occupato da un centinaio di famiglie. È un palazzo della Telecom dove è andata questa fetta di popolazione. Ci colleghiamo con Federico Mascagni, che a Bologna si trova là davanti. Vogliamo sapere come procedono le cose. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti. In questo momento si sta ancora andando avanti la conferenza stampa che è stata convocata d'urgenza da parte del comune e dall'assessore Amelia Frascaroli, che ha gli uffici esattamente di fronte alla palazzina della Telecom, proprietà di un fondo privato, dove perfino il numero degli occupanti non è chiaro. Si parla di 95 famiglie, più di 100 minori, forse quasi più di 200 persone in totale presenti dentro questa palazzina asserragliata. La questura non può muoversi, c'è una trattativa in corso dove il dialogo è complesso perché non si riesce di fatto ad avere un contatto fruttuoso fra l'ente pubblico e gli occupanti. Allora vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Intanto ringraziamo Federico Mascagni per questo aggiornamento. Abbiamo in studio Carlo Genta. Ciao Carlo, per parlare di Champions. Ciao Simone. Evidentemente. Ciao. Eccoci. A tutti. Sì, sono due giorni di Champions estremamente importanti, soprattutto per la Roma, che gioca stasera che comincia stasera un doppio spareggio con il Bayer Leverkusen. Prima partita sarà in trasferta in Germania. Rientra Zeko anche se solo dalla panchina, la Roma ha un solo punto dopo due gare, i tedeschi ne hanno tre e dunque sono due partite a stretto giro di posta, perché ricordiamo che al prossimo giro il Bayern renderà visita alla Roma, due partite da cercare di vincere a tutti i costi per rimanere in corsa in Champions. Poi qui possiamo farci mille domande, ad esempio: la Roma deve dare tutto per riuscire a portare a casa la pelle in questo difficile girone di Champions League, oppure magari pensare allo scudetto e provare a divertirsi in queste tre gare che restano di Champions? Quesito aperto. Domani c'è anche Juventus, Borussia, Mönchengladbach, testa coda invece in questo caso, ma la Juve in Coppa fin qui è stata una garanzia. Grazie Carlo, e ovviamente se ne parlerà in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi ci fermiamo, sentiamo che cosa succede sulle strade e poi torneremo a Benevento per capire qual è la situazione delle aziende. Cercheremo qualche sindaco del beneventano e poi parleremo di questa sentenza in arrivo sulla legge Severino. Vogliamo capire quali scenari si aprono, soprattutto per quanto riguarda figure come quella del presidente Campano De Luca o del sindaco di Napoli De Magistris. A tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie principali: il sindaco di Roma Marino dice ho 20 giorni per riflettere sulle dimissioni, sono vergognosi gli esposti di 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il maltempo, proseguono nel sud alluvioni, smottamenti e crolli, nel Sannio si chiede l'intervento dell'esercito. Ha sorpreso un ladro in casa, gli ha sparato e lo ha ucciso, è indagato per eccesso di legittima difesa, è avvenuto tra Bergamo e Milano. Arrestato in Israele lo sceicco Youssef, leader di Hamas in Cisgiordania, nuovo accoltellamento di un soldato israeliano. E siamo al tema degli effetti del maltempo e soprattutto delle alluvioni che hanno colpito soprattutto il Sannio. Lo facciamo con due persone, Biagio Mataluni, presidente di Confindustria Benevento, buongiorno e benvenuto presidente. Buongiorno. E Giancarlo Golia, sindaco di Circello, siamo sempre in quelle zone, buongiorno sindaco. Salve, Gian Claudio Golia, mi scusi. So che siete, sindaco, partirei da lei, in una condizione devastante, è stato proprio lei a chiedere l'intervento dell'esercito, no? Assolutamente sì, senza fare drammi, ma la situazione è critica perché abbiamo tre ponti che sono crollati, le contrade, la zona rurale, quella che poi è densamente abitata, quindi i soccorsi sono difficili pure da fare, li stiamo facendo a piedi con la popolazione e con tutte le imprese che ho a disposizione sul territorio. La situazione è una catastrofe. Ci sono ancora persone isolate, famiglie isolate, sindaco? Assolutamente sì, senza energia elettrica, senza comunicazioni, cellulari spenti perché ovviamente l'energia manca dalle prime ore della notte. Noi abbiamo presidiato, siamo in presidio in comune da ieri mattina e non ci siamo mossi, stiamo coordinando tutti gli aiuti qui dal comune con i nostri cittadini, con la nostra protezione civile e con le nostre imprese. Con quante persone avete perso i contatti, sindaco, persone che non siete riusciti ancora a raggiungere? Sono diverse le famiglie, Circello conta circa 800 famiglie, credo che un 300 famiglie siano irraggiungibili, quindi anche se a piedi stiamo cercando di raggiungerle tutte, è difficile, è una situazione abbastanza complicata. Se non si ripristinano questi tre ponti, Circello vive uno stato veramente di emergenza. La ringrazio, grazie sindaco per la sua descrizione e passiamo a Biagio Mataluni, presidente di Confindustria a Benevento. In queste ore la tensione si è concentrata molto anche sui social sulla devastazione che ha colpito il pastificio Rummo. Tutto bene, la gara di solidarietà, però presidente, in realtà le aziende colpite sono molte. Avete una stima dei danni? Vi siete fatti un'idea? Diciamo che rispetto alle manifestazioni alluvionali che ci sono state in Italia, qui a Benevento si è aggiunta una particolarità molto più grave, e cioè la zona industriale principale della città, che si chiama Ponte Valentino, accoglie numerosissime aziende, e questa alluvione ha colpito molto anche altre zone, ma in modo particolare Ponte Valentino. Praticamente noi abbiamo una situazione di ben 70 aziende interessate, e Rummo ha avuto più danni perché era il primo stabilimento più vicino al corso d'acqua, anche se a debita distanza di legge, ma comunque quello più vicino. Però l'area industriale di Ponte Valentino si trova in una vallata che è stata completamente inondata. E dunque i danni, noi ieri abbiamo avuto un vertice tra Confindustria e anche l'ANCE, con la partecipazione anche degli ordini professionali, degli ingegneri, architetti, geometri, eccetera, e siamo riusciti a mettere in piedi una gara di solidarietà per andare a portare gratuitamente l'assistenza alle aziende per fare la quantificazione dei danni. Certo. Ad oggi abbiamo stimato qualcosa come 500 milioni di euro di danni, e la cosa anche grave è che abbiamo già 500 richieste di cassa integrazione, di 500 persone, lavoratori che vanno in cassa integrazione con queste richieste, e le aziende sono molte, quindi rispetto un po' anche agli altri episodi che sono verificati nel paese, questa alluvione che ha colpito Benevento ha creato un danno notevole al comparto produttivo. Certo, 70 aziende, queste al momento sono tutte ferme, Presidente? Tutte ferme. Consideri, noi abbiamo avuto anche... Per un totale, mi scusi, quanti dipendenti più o meno, ovviamente? Complessivamente sono un migliaio i dipendenti interessati. Ad oggi circa 500 sono le richieste, 500 dipendenti sono oggetto di richiesta di cassa integrazione. Sì. Non sappiamo, perché adesso c'è anche un'attività di recupero, si sono avviati i lavori per liberare il fango, per liberare tutto quello che è successo. C'è stato un sopralluogo anche del presidente De Luca, devo dire il vero. Il presidente De Luca ha dimostrato molta sensibilità al problema, è stato presente, ha anche chiesto al governo la possibilità di fare interventi prioritari per la difesa del suolo al di fuori del patto di stabilità, perché le risorse ci sono, ma abbiamo bisogno anche che le istituzioni utilizzino queste risorse la possibilità... senza lacciatelle burocratiche, quindi la possibilità di spenderle, dice lei. Io la ringrazio, grazie a Biagio Mataluni, presidente di Confindustria Benevento, per averci dato questo quadro della situazione. Sicuramente non lasceremo il Sannio da solo, come facciamo sempre in questi casi. La ringrazio e in bocca al lupo per il lavoro delle prossime ore. Francesco Clementi. studenti costituzionalista dell'Università di Perugia. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Bentornato ai nostri microfoni. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa sentenza della Corte Costituzionale, dalla Corte Costituzionale sulla legge Severino, questa legge appunto che potrebbe creare parecchi problemi, è quella che prevede la sospensione per i condannati che potrebbe creare parecchi problemi proprio al De Luca testé nominato presidente della Regione Campania, a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Che cosa si attende lei? Dunque, dico semplicemente una cosa, che noi di fronte abbiamo un problema che è questo. Da un lato il testo della Costituzione, l'articolo 25, con tutta chiarezza ci dice che appunto il principio di irretroattività non può essere appunto soverchiato, cioè nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima che il fatto sia commesso. Dall'altro abbiamo una situazione nella quale appunto la legge Severino è intervenuta per regolare fatti in particolare di condanne anche in primo grado per determinati reati specifici, dalla corruzione, associazione mafiosa, traffico di droga e abuso d'ufficio. Il punto quindi è capire come la Corte si regolerà rispetto al diritto intertemporale, cioè al diritto che si manifesta nel momento in cui il fatto criminoso è intervenuto successivamente, non preventivamente, rispetto alla legge. Io mi aspetto innanzitutto una valutazione da parte della Corte molto attenta dei profili che hanno sollevato di fronte ai suoi occhi il giudizio, profili che potrebbero essere da questo punto di vista anche non corrispondenti esattamente al tema in discussione. Cioè vorrei dire che se il tema è chiedere alla Corte se c'è stata e se è concessa o meno la retroattività sul punto, è chiaro che i dubbi di costituzionalità sul punto sono tanti, non da ultimo perché lo citavo prima a lei. La Costituzione all'articolo 25 vieta la retroattività, sì, del fatto a maggior ragione penale. Credo che quindi innanzitutto il tema si ponga nel rapporto fra i fatti che si sono prodotti e il ruolo svolto, ed è la ragione per la quale, come tutti ben sanno, il presidente De Luca, eletto poi sospeso, ha avuto ragione rispetto alla sospensione nel luglio di quest'anno, proprio perché questo avrebbe determinato un impasse nel sistema politico istituzionale, in ragione, certo, appunto del fatto che la sovranità, sì, si era espressa nel voto. Allora io mi aspetto che in questo senso la Corte ci dia una linea guida esattamente su questo punto, ma bisogna vedere se i ricorrenti alla Corte hanno sollevato questa questione. Io ritengo perché il ricorrente è De Magistris in realtà in questo caso. Esattamente, sì, perché noi abbiamo tre casi famosi, sì, diciamo. De Luca, Berlusconi e De Magistris. Esattamente, può darsi che la richiesta del sindaco di Napoli De Magistris, e cioè in particolare, se ho capito bene, la questione della certamente della retroattività da un lato e dall'altro del tema dell'equità tra parlamentare nazionale e amministratore locale, rischia di essere probabilmente un punto dal punto di vista proprio tecnico, sì, del giudizio forse inefficace, e quindi io non escludo che sia rigettato e quindi la Severino mantenga tutti i suoi profili di costituzionalità, perché diciamo il tema decidendum non corrisponde esattamente probabilmente alla domanda di fondo che soggiace a una questione, cioè torno a dire il tema del diritto intertemporale, sì, come ci si regola di fronte a fatti avvenuti in precedenza che tuttavia incidono direttamente nel mandato elettorale nel momento in cui appunto è intervenuta la legge Severino, che ricordiamolo è del 2012. Ecco che questo tipo, sì, di ragionamento secondo me potrebbe fare la Corte, quindi in realtà allungare i tempi più che darci una risposta oggi subito già operativa. Vedremo che cosa succederà. Dunque, intanto la ringrazio, come avete sentito è questione piuttosto complessa, ma che riguarda appunto il governo anche di una città importante come Napoli e di una regione importante come la Campania. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione avremo, come sempre, come tutti i martedì, l'inchiesta di Daniele Biacchessi, oggi dedicata alla politica. Parleremo del blocco delle adozioni internazionali. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli a partire da una notizia appena battuta dalle agenzie, una conferma, ossia che il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è indagato dalla procura di Spoleto. Visco è indagato dal 28 gennaio 2015 per concorso in corruzione, abuso d'ufficio e truffa, infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. È un'inchiesta riguarda la vendita della Banca Popolare di Spoleto. Le altre notizie arrivano dal sindaco di Roma, Ignazio Marino, che dice: ho 20 giorni per riflettere sulle dimissioni. Aggiunge: sono vergognosi gli esposti di 5 Stelle e Fratelli d'Italia contro di me. Si riferisce a quelli evidentemente sugli scontrini. Il maltempo proseguono nel sud le alluvioni, gli smottamenti e i crolli. Nel Sannio si chiede l'intervento dell'esercito. Avete sentito un sindaco poco fa che parla di 300 famiglie ancora isolate che non si riescono a raggiungere nemmeno al telefono. Ha sorpreso un ladro in casa, succede a Vaprio d'Adda tra Bergamo e Milano. Gli ha sparato e lo ha ucciso, adesso indagato per eccesso di legittima difesa. Alla borsa. Invesco. Per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, una notizia appena battuta dalle agenzie riguarda il sistema dei ricollocamenti dei profughi da parte dell'Unione Europea, che rischia di incepparsi con l'aereo che parte dall'Italia questa settimana. Con un centinaio di profughi si esauriscono i posti messi a disposizione. Fino ad oggi dagli stati membri sono solo 6 paesi che hanno dato disponibilità ad accogliere, e solo per piccoli numeri è quello che riferisce l'agenzia di stampa ANSA. Nell'altra notizia di oggi sono le parole del sindaco di Roma, Ignazio Marino, che dice: ho 20 giorni per ripensare alle dimissioni, e poi attacca duramente le altre forze politiche per gli esposti presentati sugli scontrini. Magari risentiamo le sue parole. Sono esposti che io non esito a definire vergognosi. Sono scritti o da persone in malafede o da persone ignoranti. Così dunque Marino, e restiamo sulla politica con l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi, che ci parla della situazione nel centrodestra. Chi guida oggi il centrodestra? Matteo Salvini oppure Silvio Berlusconi? L'ultimo sondaggio di Demos, i cui dati vengono confermati anche da altri istituti di rilevazione, è impietoso per la Lega di Salvini. Nonostante il forte sostegno mediatico di Salvini, Forza Italia ha ripreso voti e consensi e ha superato il Carroccio. Il partito di Berlusconi è stimato oggi al 13,2%, con tendenza verso la crescita. Solo un mese fa era dato all'1%. 11,4%, il suo minimo storico. La Lega invece è scivolata al 12,5% dal 14% di 30 giorni fa, con tendenza a caduta libera. Sulle posizioni leghiste su migranti e rifugiati è ancora difficile dire quanto ha influito il forte vento di solidarietà europeo. È certo però che i rapporti di forza tra i due storici partiti del centrodestra sono cambiati, e le due manifestazioni distinte organizzate a Bologna e Firenze il prossimo 8 novembre sono lì a dimostrarlo. La sensazione però è che Lega e Forza Italia sono condannati alla sacra alleanza, perché da soli rischiano la marginalità. Insieme invece diverrebbero competitivi, soprattutto in caso di ballottaggio, come previsto dall'Italicum, la nuova legge elettorale voluta dal premier Renzi. L'ha scritto anche il Sole 24 Ore qualche giorno fa: nella commissione sulle adozioni internazionali è letteralmente una commissione fantasma, e le adozioni internazionali sono sostanzialmente ferme. È passato più di un anno da quando la fatina del governo, Maria Elena Boschi, si faceva fare le treccine dai bambini adottati in Congo e riportati in Italia. Un anno durante il quale il numero delle adozioni internazionali è in costante calo, e soprattutto molte famiglie sono arrabbiate. Lamentano la latitanza della Commissione Adozioni Internazionali, l'ente del governo che dovrebbe monitorare e sovraintendere tutti i processi di adozione all'estero. La Commissione non si riunisce da più di un anno, esattamente dal 27 giugno 2014, quando si è insediata la presidente Della Monica, che nel frattempo ha accumulato 3 incarichi in Commissione senza avere mai il tempo per convocarla, senza sostituire i membri della Commissione a cui è scaduto l'incarico e soprattutto senza rispondere alle famiglie. le quali sostengono che in questo vuoto di potere chi vuol fare il bello e il cattivo tempo ha la possibilità di farlo. Su questo ha presentato due interrogazioni parlamentari il deputato grillino Emanuele Scagliusi, vicepresidente della Commissione per i diritti umani. Questa coppia ha speso fino a 12.000 euro, questo ente prende molte adozioni verso l'Etiopia sapendo che è una situazione bloccata. Diverse situazioni sono bloccate, dal Congo, che è quella che ha avuto più risalto mediatico, alla Bielorussia, e poi ci sono magari enti che approfittano di questo stallo per continuare a prendere incarichi in paesi bloccati. Da luglio il governo di Minsk aspetta di ricevere dall'Italia una lettera di garanzia senza la quale il governo bielorusso non consente a 124 bambini già adottati da italiani di lasciare gli istituti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è il traffico, poi America 24 con il nostro Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.